Cristo, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza delle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. O Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Dio e Uno, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, gloria e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.